Nexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Circa una settimana fa Massimo Cortinovis ha pubblicato un commento su LinkedIn che ha visto coinvolti in una discussione un buon numero di persone riguardante un articolo che titolava «Chiude la storica libreria Paravia di Torino, la seconda più antica d'Italia». Amazon ci ha distrutto. E Massimo Cortinovis commentava: una storica libreria chiude per riduzione drastica del business e assegna la colpa ad Amazon, che ha cambiato le abitudini di consumo della gente. Che ne pensate? È veramente colpa di Amazon oppure sono cambiati i modelli di business? Abbiamo avuto una bella discussione che vi invito ad andare a leggere, a cercare su LinkedIn, ma da lì poi, anche grazie all'intervento di Duccio Lunari, abbiamo portato ai microfoni di Radio Next a tutti gli effetti due leader di mercato. Davide Surace, che è il Chief Digital Officer di Stereo, che è la società della Feltrinelli che si occupa del mondo digital, e poi Matteo Ulrico Oepli, che capirete anche dal cognome, non si lavora sicuramente per Mondadori, ma è il vicepresidente esecutivo di Oepli Libri. Buongiorno a tutti e due. Ciao, buongiorno. Ciao. Vi ho chiamato qui perché vorrei affrontare un argomento che è spinoso. Partendo magari facendo anche due puntate, l'idea è fare due puntate. Oggi parliamo magari dei comportamenti lato acquisto e prossima puntata parleremo invece delle librerie, quindi l'offerta. E allora vi chiedo, la libreria, che è un luogo di raccoglimento, un luogo dove le persone vanno a cercare qualcosa che toccano, che sentono, che sta vedendo però dei numeri proprio di partecipanti a questa esperienza d'acquisto che è cambiata, che diminuiscono. Che cosa si aspettano oggi gli acquirenti di un libro quando entrano in libreria? Cosa vogliono le persone che leggono? Allora, grazie dell'invito. Cosa vogliono? Vogliono sicuramente un'esperienza diversa rispetto a quella di prima. Esperienza che deve essere a tutto tondo, devono entrare all'interno del libro, quindi devono entrare a contatto. Quindi quello che avremo sicuramente intenzione di fare è di portare dei contenuti multimediali all'interno delle librerie, già cose che sono state fatte. Se andate in Duomo trovate degli schermi dove si parla di book trailer, classifiche, recensioni degli utenti e dei contenuti che possono dare qualità e le informazioni in più rispetto alla classica sinossi o prefazione dell'autore. Noi siamo assolutamente famosi per avere poi lanciato un nuovo format, che era il format Red, che univa ovviamente l'introduzione alla ristorazione. Quella fa parte di un'esperienza diversa, nutrizione del corpo e della mente nello stesso identico modo. Matteo, ma come sta cambiando il consumatore? Cos'è che vuole? In un certo senso non cambia mai niente. Per cambiare tutto, esatto. Come diceva qualcuno qualche anno fa. Esatto, e quindi fondamentalmente le persone cercano informazioni, risposte alle loro domande. E ovviamente fino a un po' di tempo fa il libro era dove tu potevi trovare tutte le risposte. Libro era anche un oggetto che in casa aveva costruito un certo status symbol, no? Assolutamente. Si comprava l'enciclopedia non certo per leggerla prima di andare a letto. Stava bene su in alto e faceva pandan col colore pezzo di casa. D'arredamento. È cambiato anche l'arredamento in realtà. Certo. Le librerie sono state sostituite dal minimal. Quindi in un certo senso il bisogno del consumatore, quindi del lettore, è quello di dare informazioni, possono essere divertenti, trattenenti, diciamo Harry Potter o qualche altro bel libro di Camilleri, oppure informazioni come la manualistica, dove Oepli da 150 anni, facciamo tra l'altro il compleanno proprio in questi giorni, era sempre stata molto famosa perché era l'unico modo per arrivare al tuo bisogno. E in verità oggi i consumatori fanno ancora la stessa cosa, però hanno anche dei canali diversi della libreria. Quindi quando vengono nella libreria fisica, la nostra libreria è lì da 150 anni, vengono e adorano venire in libreria. Ma chi è che c'ha più tempo di andare in libreria, ragazzi? Ma questa è la vera differenza, nel senso che sicuramente il tempo è cambiato. Ci sono più strumenti. Oggi le persone utilizzano 3.000 strumenti, prima non c'erano. Oggi c'è lo smartphone, c'è l'iPad, c'è il PC, cosa che prima ovviamente non c'è, si lavora molto di più, non dimentichiamo. Sono cambiate anche le tipologie, come dire, di fruizione del contenuto, no? Cioè non più magari leggere un libro, ma leggere contenuti snack che durano molto meno. Esatto, questi contenuti snack, come diceva Davide, sono presi de fatto molto velocemente e in maniera anche appropriata. Magari è da discutere, magari come noi, di qualcosa, uno va a vedere un'informazione velocemente, non ha tempo di andare né a comprare né a avere un libro. E invece il libro rimane ancora quel prodotto, secondo me, super sexy, perché la carta alla fine ha un qualcosa di magico, dove trovi il tuo contenuto intimistico, perché quando leggi sei da solo, e quello per fortuna è una sensazione che tutti ancora adorano e lo dicono, ma come dicevate c'è meno tempo di andare in libreria, alcuni contenuti li prendi da un'altra parte e quindi si è ridotto comunque il consumo. Questo è Savasandir, ma sono anche quindi ci sono meno lettori, ci stiamo dicendo lettori di libri o meno lettori in generale? Secondo me le domande sono molte di più e quindi le troviamo e le leggiamo su altri contenuti, come diceva Davide, ma il libro di carta è sicuramente... Secondo me ci sono molti più lettori che leggono meno libri, questa è la differenza, però i lettori sono aumentati, se uno va su Facebook legge, se uno va su Instagram legge, vede, non... sono c'è dei però... contenuti, perfetto. Quindi è una variazione di contenuti. Ok, c'è però poi il problema, senza adesso scivolare sul problema delle fake news, però c'è il problema della rilevanza delle fonti. Che non significa che chi ha scritto un libro sicuramente ha delle fonti certe, ma ci aspettiamo, leggendo un libro, di avere, lasciatemi mettere tra virgolette, una verità, ok? Che oggi Facebook, Twitter, LinkedIn in realtà non portano, no? O quantomeno non si portano dietro, anzi sono accusate esattamente del contrario. E questo parliamo di qualità di lettura. Io ho detto che più lettori che leggono meno libri, ma non ho detto che leggono qualcosa di qualità. Se dobbiamo riferirci alla qualità, sicuramente il libro rimane lo strumento più sexy che ci possa essere. Sì, no, infatti è proprio così, nel senso quando uno legge il libro è convinto quasi appunto modello Bibbia, che sicuramente, anche perché c'è dietro un editore, la qualità dei contenuti è stata controllata ed è così. Noi che facciamo libri tecnici dobbiamo assolutamente fare così, abbiamo i revisori che sono tutte persone specializzate. La narrativa ovviamente, Savasandir invece è un racconto e quindi la qualità dell'autore viene certificata dagli editori che fanno scouting, che leggono tanto, e la saggistica ovviamente, che secondo me in questo momento importantissimo, un momento storico in cui ripercorrere tutto ciò che abbiamo fatto come esseri umani è fondamentale, sono diciamo hai quasi solo il libro, perché su internet non riesci a ricostruire una storia lunga, hai tanti pezzettini. Certo, diventa quindi un puzzle. Ma quanto è oggi, dal vostro punto di vista, ancora appealing avere tra le mani un libro, poterlo aprire, sfogliare, toccare la brossura, sentire l'odore della carta, che è uno dei driver motivazionali di acquisto oggi per un libro? Guarda, secondo me tantissimo, nel senso che basta vedere il dato dell'ebook in Italia che non è volato, siamo intorno perché, all'8%. Perché secondo te, Davide, si vendono ebook in Italia? Per quello che hai detto tu, perché comunque il tatto della carta e il gusto della carta sicuramente un qualcosa in più che l'ebook non ha. Quindi magari saggistica professionale, tantissime cose che possono essere più di informazione pura potranno passare in futuro, ma quando devi entrare, come ha detto prima Matteo, in un rapporto intimo con te stesso, preferisci sicuramente la carta, perché vuoi immergerti in un mondo e quindi sfogliare diventa sempre un piacere. I dati lo confermano, nel senso che, ripeto, l'ebook non ha mai sforato. C'è una ragione ulteriore, Matteo, secondo te, da questo punto di vista? Ma guarda Pepe, io ho avuto la fortuna immensa di essere entrato nel mercato degli reader attorno al 2010, quando erano di grande moda. E quindi fondamentalmente avevamo il cosiddetto libro elettronico, lo chiamavamo noi, in vetrina, perché per me era un libro. Poi conteneva tanti titoli, ma libro era. Mi ricordo che ero giù io a vendere proprio personalmente, perché dovevo cercare di capire che tipo di clienti erano interessati al nuovo device, che però faceva solo una cosa: leggevi dei libri, no email, no tante altre cose. Questo è stato secondo me un primo limite, perché comunque costava dei soldi. La cosa era fondamentalmente dedicata, diciamo, ai super lettori, quelli che leggono un libro ogni 48 ore o ogni 36 ore, per cui hanno bisogno di avere, per esempio, per un weekend 4-5 titoli. E non riescono a portarseli in valigia, quantomeno è scomodo. Bravissimo, quindi parto per un viaggio di 2 mesi, boom, con una cosa che pesava, non so, 120 grammi, porto via un sacco di libri. Poi, e questa è una battuta, mi diverto sempre andando a una fiera, vedo una grossa esperta di narrativa: ah, Matteo, ho appena preso il device nuovo, c'ho 500 titoli sul device. Io la guardo e dico: il volo per Londra dura un'ora. Quindi, se va bene riesce a leggere un pezzo di quello. Esatto, quindi tanti si sono accorti che era un bello oggetto e tutto, ma non serviva e non era sexy. Io spero che questa cosa non verrà mai persa, nel senso che dalla parte dell'editore, visto che faccio parte anche di un gruppo che è un editore interno, certo, fate conto che anche lo studio della carta e della copertina viene comunque concordato con l'autore, perché anche quello è legato al contenuto del libro, quindi anche la carta che viene utilizzata molte volte ha un significato. Quindi... Però mio figlio Alessio, per esempio, si sta abituando, o si è già abituato a 14 anni, a leggere il libro, anche quello di scuola, il libro di narrativa, prima di andare a letto sul suo telefono, non un libro di carta. C'è il pericolo che si perda un po' questa abitudine, quindi perdendosi questa abitudine non ci sia più la necessità di libro di carta e quindi nessuno lo vada a comprare semplicemente perché, come dire, non abbiamo avuto più l'esperienza e quindi non avendo vissuto quell'esperienza non abbiamo un ricordo da richiamare alla mente. Il rischio c'è, esiste proprio per quello che hai detto tu, esperienza. L'esperienza la devi testare, quindi se sei abituato è un'esperienza che tu hai fatto, se non la fai dovremmo essere noi in grado di portarli all'interno delle librerie per spingerli a provare l'esperienza. Perché sicuramente resta. Questo, Davide, secondo me è un punto fondamentale nel quale torneremo la prossima puntata, proprio per entrare nel vivo della discussione del ma i librai come stanno interpretando l'esperienza. Matteo? Esatto, indubbiamente noi siamo stati quelli, la nostra generazione, quelli che hanno visto dall'analogico, cioè pura carta, anche al digitale, diciamo, comunque a internet eccetera. Quelli che stanno nascendo, diciamo, dopo il 2000, hanno magari dei genitori come noi, quindi hanno ancora questo tipo di esperienza. Evidentemente tra un paio di generazioni saranno generazioni tutte digital e forse la carta. Quindi indubbiamente l'esperienza e, come dire, il ricordo di uno strumento eccezionale, perché vi ricordo che la carta stampa è una delle tecnologie più mitiche della Terra, certo, ha 500 anni ma è tuttora geniale. In un secondo sei alla pagina che vuoi, vedi la copertina come diceva Davide e capisci subito di cosa stai parlando. Non hai bisogno di corrente elettrica. Non hai bisogno, no, di corrente elettrica. E attenzione, un bel libro letto sulla spiaggia è un ottimo modo per iniziare una bella conversazione. Perfetto, allora torno però ancora al concetto di esperienza, perché secondo me continuano a mancare numerose altre esperienze che il libro cartaceo dà. Regalare un abbonamento a Storytel per il libro, l'audiolibro, o il voucher per comprare il libro su Amazon non ha la stessa sexiness di prendere un libro, incartarlo, metterlo in una busta rossa e presentarlo e metterlo sotto Natale. Assolutamente no. Sembra un po' la bustina da mettere, cioè la bustina con i soldini che ci davano quando eravamo assolutamente piccoli. Assolutamente no, e devo dire che è una cosa che in libreria Oepli da 150 anni continua ad essere mitico sugli ultimi 10 giorni prima di Natale. Vi invito a venire perché è una cosa eccezionale. Code di 30-40 persone alle casse, tutti che regalano il libro, perché come dicevi tu Pepe, regalare il libro specifico, quindi un libro che è bello, che ha un titolo, ti sto dicendo qualcosa. E ti sto capendo, ti sto dicendo qualcosa. Bravissimo. Ti sto capendo. Quella, quanto meno, ci sto provando. Ci sto provando. E i librai veri ti hanno aiutato a scegliere il libro giusto per la persona, magari amata, per i bambini, per il nonno. Questo il machine learning, secondo me, però batte i librai. Senti questa esperienza. Allora, su questo non sono d'accordo. Vai, Davide. Non sono d'accordo. Ovviamente digital utilizziamo machine learning tantissimo. Noi però facciamo sempre delle attività anche con i librai, i consigli dei nostri librai, e ti assicuro che i consigli dei nostri librai funzionano sempre meglio del machine learning. Sei sicuro? Sicurissimo, li facciamo. Vabbè, Davide, tutti allora, tra qualche anno ti richiamo qua ai microfoni perché voglio sentire tutti però e guarda, due. Guarda, lavoriamo con dei leader di mercato sul machine learning, ti assicuro che lavorano. Perché sai qual è la differenza? Perché il vero libraio conosce i suoi clienti. Il machine learning non conosce i suoi clienti. Il vero libraio conosce i suoi clienti, sa che libro ha venduto, e ti assicuro che quello rappresenta ancora un plus importante delle librerie. Ah, io mi fido, no, ragazzi, tu, Matteo. Tu conta, Pepe, che l'esperienza fu alle 7:29 del 24 dicembre. Arriva un cliente, sono appena atterrato dall'America, ho una cena di famiglia con 12 persone. Sì. Eravamo in tre, ci ha detto quali erano le persone, in meno di 5 minuti aveva i regali perfetti. E lui fa, ma come fate a fare i regali così bene e sapere? Dico, guardi, siamo librai, è il nostro lavoro. Vedi, su questo concordiamo in pieno. Io su questo concordo con voi due e concordo sul fatto che siamo arrivati al clock per chiudere questa puntata, ma per darci l'appuntamento alla settimana prossima, dove invece affronteremo lo stesso argomento dal punto di vista della libreria. Quindi ringrazio Davide Surace, che è Chief Grazie Digital Officer di Stereo, Gruppo La Feltrinelli, Matteo Enrico Oepli, Vice President Esecutivo della libreria Oepli. Grazie mille, arrivederci. Dall'altra parte del vetro, Johnny Wishbone, che ci ha aiutato a fare questa puntata anche oggi. Io ringrazio tutti quanti voi, mi raccomando, andatevi a leggere il thread che c'è stato su LinkedIn e soprattutto vediamoci e sentiamoci la settimana prossima per concludere questo discorso. Un saluto da Pepe Moder a tutti voi.